Sarà una puntata atipica in mostra, ma come ben sappiamo c'è tanto, tanto bisogno sempre e comunque, ma oltretutto in un momento come questo, di ricordare grandi figure come Giacomo Matteotti, indipendentemente dal centenario 1924-2024. Antifascista, socialista da giovanissimo, vicino agli ultimi, ai braccianti, agli operai, ai contadini, organizzatore di cooperative, organizzatore di movimenti per i diritti sul lavoro, per un impegno contro le ingiustizie, contro il fascismo dilagante oltre, dopo la sua uccisione, sarà motivo oltretutto di un aspetto dittatoriale, ma ne vedremo i percorsi in maniera un po' più dettagliata. Poi entrando in mostra, sia a Fratta Polesine con la riapertura della Casa Museo, sia a Rovigo a Palazzo Roncale. Palazzo Roncale è una sede molto attenta alla storicità del territorio, ma in questa circostanza direi che in maniera estesa e totale dà un identikit preciso a una figura, oltre che all'impegno sociale, all'importantissimo aspetto politico, anche al fondamentale aspetto umano. Fratta Polesine è un paesino, viene da dire come tanti, ma non è come tanti, perché anche nell'affascinante territorio polesano ogni centro, che sia piccolo o più grande, ha le sue caratteristiche storiche ben definite, sia nel territorio che nella storicità. Per quanto riguarda Fratta, già importante da spunti storici che vanno ancor più nel passato, è stato triste teatro di un eccidio di carbonari per mano austriaca. Nell'aspetto risorgimentale del paese, il Polesine e Fratta sono stati importante motivo di associazioni carbonare, ma di questo poi Villa Badoer, a sua volta una villa che è stata costruita dal Palladio nella rassegna di ville che ci sono non solo a Vicenza, ma che sono così definite palladiane e polesane, ne dà una bella mostra di sé, con un'architettura unica e speciale in un contesto veramente affascinante, come ho già detto più volte. La Casa Museo di Giacomo Matteotti è stata riallestita, è stata riaperta, ne sentiremo appunto nel dettaglio poi i contenuti, grazie alla voce di Giampaolo Romanato, che è presidente del ricerca di progetto scientifico su tale sede. Nato e vissuto sempre in questo paesino, ha sempre guardato dalla periferia il centro e non viceversa. Le condizioni di braccianti, operai e contadini in un territorio che vedeva un aspetto di analfabetismo veramente imperante, ha trovato in Matteotti, nonostante questa realtà e condizione da servi della gleba e totalmente padronale da parte di latifondisti che non avevano certo attenzione per il diritto sul lavoro, anzi, come ho detto, un aspetto di servi della gleba, con i ragazzi giovanissimi sfruttati e portati nei campi, nessun rispetto per le donne, figuriamoci su quello che era un percorso lavorativo. Ecco, si erge questo immagine, questa concreta immagine che ne darà denuncia e farà di tutto per contrastare questo purtroppo molto forte aspetto nel Polesine, non solo, ma ricordo quello che poteva essere nella seconda metà dell'Ottocento, una condizione che posso definire, per chi lavora, disperata. E non dimentichiamo il territorio, aspro, un territorio certo da cartolina se vogliamo, bello sicuramente, ma poi avere motivo di lavoro, di quotidianità all'interno ed esposti alle intemperie, con freddissimo d'inverno, un'afa soffocante d'estate, le malattie, la condizione per quanto riguarda l'alimentazione, si mangiava per lo più polenta, quindi si era anche anche vittime di una condizione alimentare molto povera e di certo non salubre. Fratta Polesine vede la luce Giacomo Matteotti il 22 maggio del 1885, politico, giornalista, antifascista, segretario del Partito Socialista Unitario. Lui si iscrive al Partito Socialista Italiano nel 1800, perché lui è del 1885 e si iscrive a soli 13 anni al Partito Socialista Italiano, dopodiché avrà modo da una scissione di riportare al Partito Socialista Unitario, in quanto addirittura viene espulso dal Partito Socialista Italiano. Fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista cappeggiata da Amerigo Dumini a causa delle sue denunce, come ho detto anche in precedenza, delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti fu ritrovato circa 2 mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto del 1924. Cominciamo allora un percorso ascoltando la voce di Giampaolo Romanato, che ho presentato in precedenza, a proposito appunto della riapertura della Casa Museo Matteotti in quel di Fratta Polesine. Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine è la villa in cui è sempre vissuto per tutta la vita Matteotti con la propria famiglia. Alla sua morte la villa rimase alla moglie e ai figli, e alla morte della moglie nel 1938 rimase di proprietà dei figli. L'ultimo dei figli, Giancarlo, l'ultimo ad andarsene, morì nel 2006, lasciando insieme con l'astro testamentario come la casa ebbe bisogno di un radicale restauro, al termine della quale nel 2012 fu aperta al pubblico, divenne casa museo appunto Giacomo Matteotti, fu istituito anche un comitato scientifico per controllare l'uso corretto, e di lì iniziò l'afflusso del pubblico, che da allora è stato anche sempre molto, molto cospicuo, più di quanto pensavamo, 3-4 mila persone l'anno, nonostante il fatto che la casa sia aperta soltanto nei fine settimana. Poi, in coincidenza adesso con il centenario della morte, la presentazione della figura di Matteotti, che era stata allestita all'interno della casa, è stata rinnovata, rifatta interamente con un finanziamento della Fondazione Cariparo, e questo nuovo allestimento della figura storica di Giacomo Matteotti sarà inaugurato in occasione del centenario della morte il prossimo 10 di giugno. Per la verità l'inaugurazione e l'apertura sarà il 7 di giugno, poi dal giorno 8 di giugno la casa sarà anche riaperta al pubblico. Ho portato anche un brano dalla pneumatica Emiliano Romagnola in ricordo di Stefano Zuffi, una canta dedicata a Giacomo Matteotti che ascolteremo poi in seguito. Questa figura, che tra l'altro proviene anche, seppur la famiglia di inizialmente umili origini, arriva poi ad avere un'importanza da portare un cespite economico per i componenti della famiglia, da permettere gli studi ai figli, e per quanto riguarda che poi saranno abbandonati da Giacomo Matteotti, che ha studiato a Bologna, saranno abbandonati per motivi ovviamente politici. E per quanto riguarda i percorsi, come ho detto, politici, arriverà a essere cofondatore del Partito Socialista Unitario, arriverà a denunciare

borghese vide una sorta di traditore di classe. Era il ricco che era passato con i poveri, il latifondista che si era convertito in socialista e in rivoluzionario. Quindi amatissimo dalla povera gente, tenuta distante invece dalla sua stessa classe sociale. Eh beh, certo, sarà visto come qualcuno che ha lasciato i poteri forti per stare vicino ai contadini, al sottoproletariato polesano e non solo, e portarne lotta concreta. Dalla Casa Museo la riapertura, che sarà domani, ma ufficialmente nel 10 giugno, data che, come ben sapete, l'uccisione di Giacomo Matteotti, 1924-2024, grazie a Giampaolo Romanato, che è il presidente del progetto di ricerca scientifico su Casa Museo Giacomo Matteotti. Noi procediamo, perché poi ci avviciniamo a Rovigo, per la sede di Palazzo Roncale, dove troveremo l'esposizione, in questo caso esposizione, che darà percorso, come già vi ho anticipato, anche al Matteotti uomo. grande partecipazione ai funerali, anche se le squadracce ovviamente promettevano botte a chi si sarebbe avvicinato a quel corteo. A quel corteo che portava la figura dell'antifascista Matteotti. Ci furono grandissime manifestazioni in tutto il paese, beh, ovviamente in particolare a Frattapolesine, paese, città di 3.000 abitanti. Quel giorno vide 30.000 persone. Arrivarono da Ferrara con le biciclette, al rientro trovarono minacce, botte, allontanamento dal lavoro e qualsiasi vessazione possibile. Quello che ci fu in seguito, beh, a parte che poi a distanza di qualche mese lo stesso Mussolini rivendicò l'omicidio da parte delle squadracce e allo stesso tempo, visto i disordini, mandò il Parlamento, per così dire, in vacanza, tra mille virgolette ovviamente. Questo Parlamento in vacanza non fu più riaperto e da lì in avanti l'aspetto dittatoriale diventò preponderante, diventò presente e fattuale, ecco la parola giusta, e diventò fattuale. Abolendo e chiudendo il Parlamento non erano più legali gli altri partiti politici, furono chiuse testate giornalistiche, non ci fu spazio per il dissenso, che diventò motivo assolutamente di repressione. E quindi da lì in avanti, da questo aspetto appunto, da lì ci fu ufficialmente la dittatura fascista. Questa è la prima parte, alle 8:25 minuti abbiamo terminato questa prima parte dedicata alla Casa Museo di Frattapolesine. Si rientra a breve con lo spazio invece in esposizione Rodigina a Palazzo Roncale. A tra poco. La parte seconda in mostra, che inizia alle 8:30, guarda, puntuale di questo 6 giugno 2024, dopo aver portato i contenuti di Casa Museo, ricordo 1924-2024, a 100 anni dall'uccisione per mano delle squadracce fasciste di Giacomo Matteotti, abbiamo parlato della riapertura imminente già da domani, anche se ufficialmente aperta nella data iconica del 10 giugno. Troveremo in questa seconda parte un approfondimento sul Matteotti uomo grazie al curatore dell'esposizione che è attualmente e sarà, mi pare, fino al 7 luglio in esposizione a Palazzo Roncale in quel di Rovigo. Siamo con Stefano Caretti, curatore dell'esposizione a Palazzo Roncale a Rovigo dedicato a Giacomo Matteotti. Ci avviciniamo alla data del 10 giugno, a tale proposito faremo un approfondimento nella rubrica in mostra di Radio Città Fujiko. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e da Firenze saluti agli ascoltatori emiliani, da un ferrarese esule da 60 anni a Firenze. E quindi mettiamo insieme diversi spazi, siamo internazionalisti, ecco. Sì, sì certo, però che sia una radio di Bologna mi fa piacere. Ah, questo fa anche piacere a noi, accogliere per tali contenuti. Entriamo in mostra allora, a proposito di questa immensa figura. Ci può illustrare un po' il percorso entrando a Palazzo Roncale? Sì, una premessa. Fino al centenario di Matteotti c'era soltanto un riferimento toponomastico. Tutti si sono occupati unicamente per anni e anni del delitto. Chi fosse Matteotti

che ascoltarmi state. Canto il delitto di quei galeotti che con tanto odio voler trucidare. Il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola Rossi e Domin, il capo della banda, Benito Mussolini. D'ora che Matteotti aveva scovato, appare di petrolio da altre terre. Venne su di una macchina caricato da quegli ignoti delle bande nere, in mezzo a un bosco fu trasportato là. E quegli aguzzini gli desser conforo. Il fascismo hai sempre odiato. Ora dovrai morire ora qui sull'istante. E dopo averlo torto bastonato di pugnalate te ne dieter tante, così per mano di quei vili traditor moriva Matteotti, capo dei lavoratori. Così per mano di quei vili traditor moriva Matteotti, capo dei lavoratori. Da una canzone di Stefano Zuffi ho riportato questa sigla per concludere lo speciale odierno per il centenario della morte di Giacomo Matteotti tra Fratta Polesine, suo paese natale, città di Fratta Polesine, dove ha sempre vissuto, dove le spoglie di Giacomo Matteotti riposano, non so se tanto in pace con quello che sta succedendo e quello che vediamo quotidianamente, e allo stesso tempo a Palazzo Roncale, molto attento alla storicità del territorio polesano, un'esposizione fino al 7 luglio incentrata, oltre che sulla questione politica, anche sulla vita di Giacomo Matteotti, il Matteotti uomo. Those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true, we're free. We'll be right back. E ringraziandovi per l'attenzione e portando a conclusione questa edizione straordinaria della rubrica In Mostra, ho voluto portare dal vinile We Insist, un manifesto per i diritti civili, dove Max Roach, Oscar Brown Jr., la voce che state ascoltando di Abe Lincoln, Coleman Hawkins. Sottotitolo dell'esposizione, Giacomo Matteotti 1885-1924, storia di un uomo libero. La mostra con la curatela di Stefano Caretti e il brano che state ascoltando, Freedom Day. Domani vigilia di weekend con triplo appuntamento in scena al Breakfast Club, si alza al sipario sui 103.1, la vigilia del weekend dedicata a teatro. Inizieremo un po' più tardi per lo spazio dedicato all'orientamento al voto, visto le elezioni imminenti per il weekend che è altrettanto imminente. Quindi con un buon ascolto e una buona giornata mi congedo a voi con l'appuntamento a domani e un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. Must be lying, can't